capisco perché. Sei egoista e nella tua lista la priorità ce l'hai solo tu. Gli altri con un soffio vengono spazzati qua e là. Chi rimane è il vero affetto, mai se ne va, mai se ne va. Nonostante le tue parole, nonostante le tue mosse, il vero bene è qua e non se ne va, non se ne va. Le lacrime che non vedi, le parole che non senti, sono spilli infilati di dolore dentro il mio cuore. Nonostante le tue parole, nonostante le tue mosse, il vero bene se ne va, non se ne va. Adesso il tuo turno, e cosa fai? Fila la seta del tuo rancore, ogni amore. Nonostante le tue parole, nonostante le tue mosse, il vero bene è qua e non se ne va, non se ne va, non se ne va, non se ne va, non se ne va, non se ne va.